Amor, amor, amor. Sentirti qui, ora te così, mi fa impazzire. Amor, amor, amor. Senza di te, sai che cosa è un po' morire. Non è che un momento che felice ti fa, che da tante cose di colpo va giù, ma è che il tempo sempre vede al di là, ti sembra più grande quando poi non c'è più. Amor, amor, amor, avere te dentro di me mi fa volare. Amor, amor, amor. Chiedere chi è quello con te mi fa dannare. Che un momento che felice ti fa, che da tante cose di colpo va giù, ma è che il tempo sempre vede al di là, ti sembra più grande quando poi non c'è più. Amor, amor, amor. Sentirti qui, ora te così, mi fai impazzire. Amor, amor, amor. Senza di te, sai che cos'è, è un po' morire.